Gianmari. Il tagliere. Guarda che ti ho mandato il video, guarda quel video che ti ho mandato sul cellulare. Adesso lo guardo, là. Ah, ti piazzi? Aspetta. Ah, mia. Guarda, questi i pezzi della Farromeo. No, ti ho mandato un video, l'ultimo. L'ultimo... Aspetta, che cerco. Aspetta, forse, aspetta, un attimo, che forse ho sbagliato a mandarti la pagina. Infatti, non c'è. Guardaci adesso che c'è. L'ultimo però, non il penultimo, l'ultimo, ancora non l'hai visualizzato. E cosa è giù? L'ultimo, guarda. Ma a me non me ne ha fatto niente qua. Ci sono quello che mi hai mandato ieri, lo ho fatto ieri, abbasso. Grazie. Se mi dice che l'hai visualizzato anche. È tutta della roba. Allora, qua c'è un banco in rosso con una... Cos'è che c'è? Forse anche pezzo di macchina, boh. Corri con la pagina. Poi c'è questa mascherina, cos'è una maschera, cos'è, boh. Ah, oh, l'ultimo video. Ma quello dell'albero. Dell'albero? Ah, oh, apri il video, l'ultimo che ti ho mandato. Guarda, non c'è altro, dico, perché su tutte, da quello che mi hai mandato ieri, dal 28, così che di oggi non ce n'è nemmeno uno. È un video, Gianmari, è un video, l'ultimo che ti ho mandato. Guardalo in basso alla pagina. Guarda, a me non ce n'è nemmeno uno, lui. Ma sulla scatola l'hai mandato. Su WhatsApp. Non ce n'è nemmeno una. Già c'è l'ultimo video che mi dice che l'hai anche visualizzata la pagina, che hai aperto WhatsApp. Hai aperto WhatsApp, ma non hai ancora visualizzato il video, non hai aperto il video. Adesso torno a toccare sulla scuola, perché non c'è niente, infatti, c'è Luca, però non c'è niente. Adesso lo torno a toccare, vediamo un po'. Devi aprirla la pagina di WhatsApp e scorrere, Gianmari. A me mi dice che è inviato, e come che l'hai visualizzato anche. Allora, io... non l'ho trovato nessuno, adesso ho cancellato anche quello, ho cancellato tutto. Rimandalo, vediamo un po' sullo scatto se mi presenta. Non mi hai presentato niente. Tutta roba che mi hai mandato ieri sera, basta. Capito lui. E ecco rimasto. Guarda adesso, è tre volte che ho mandato. Ci sarà qualcuno fuori. Ah no, ma sono io, avrà sentito il mio odore. Non li amo, non amo quelli che li amano, però quelli che fanno finta di amarli, è un po' diversa la cosa. Ascolti Bruciani, guarda, io come per la mia età credo proprio sia giusto, tranquillo, che abbiamo se possibile avere una conversazione. Andarose del senso di questa roba qua. Io mi chiedo, allora. No, possiamo anche affrontare il grande tema del sesso per gli anziani, per carità. No, sono un artista, innanzitutto insegno ancora, faccio le stampe d'arte. Vabbè, perché ci dovrebbe interessare tutto ciò? Aperto, non mi frega lei, la casalinga di Movera. Vabbè, allora... ho a che fare con i giovani ancora, tranquilli. Bisogna avere corpo, signora, adrenalina e corpo, anche la sua età, adrenalina. Certo, ce l'ho, mi dicono che sono molto vivace, studenti che vengono più mosci di me. Comunque, che senso vivace? Intelletto e creatività. Vabbè, allora figlio musicista, cioè non è l'università della terza età, non è l'università della terza età questa. No, per carità, ma non è una seduta di psicologia su come vivere bene la terza età. Voglio tediarlo. Ma sì, piuttosto veloci verso la tua età. E auguro di avere una buona vecchiaia come la mia. Vabbè, allora, ma magari crepo non so prima. Se nessuno guardi, nessuno, solo dire che allora io credo che si possa parlare di tutto quello che riguarda il sesso, anche perché così cerchiamo di emancipare, magari una parola, no, non abbiamo parlando, detto una parola. No, e non mi scandalizzo tanto con internet oggi, schiacciano un bottone e vedono quello che vogliono, sentono quello che vogliono. Quello che mi chiedo, lei è una persona intelligente sicuramente, e se che è la trasmissione Golia, perché avrà sicuramente le sue idee molto chiare su quello che vuole condurre, sì, come signora, condurre. No, quello che mi preoccupa, io spero di campare abbastanza, sì, per poterle dire un giorno, Cruciani, in un momento così deprimente, di degrado, cerchiamo l'abito di fare, per carità, ci sono cercare, cose. Però per quanto riguarda, per esempio, non tanto la pornografia con le storie lì, ma la politica, cerchino, guarda, cerchiamo almeno, no, cerchiamo almeno un pochino di buon gusto, di buon senso, di equilibrio, ma non dire... si può sparare a zero. Questo voglio dire. Questa, no, in questa trasmissione si spara a zero. Chi la fare entrare con Parenzo? Eccomi, come non c'è un cazzo da fare, la mia 24. Io ho ancora un marito di 92 anni che mi cucco tutti i giorni. Cucco che vuol Hai dire? Capito? Cucco che ecco. vuol dire? E insegno pure. Che vuol dire cucco? Con nel senso che devo, non ho i soldi per potermi prendere la badante. E che devo fare io? Che sono sposato da 55 e anni. E che devo fare io? Quindi no, niente. Quindi e lei che devo fare? Vuole. Ma io non sto parlando, sto parlando con la prostituta. Ma è lei che ha chiamato? Brava. A parte che lei ha chiamato. A parte avere rispetto delle prostitute. No, lei deve avere rispetto di chi chiama. Abbia rispetto delle prostitute. Io ho chiamato con molto rispetto, con molta calma, con educazione. Bravissima questa signora. Ma non ho capito che vuole. Non ho capito che vuole. Mi chiedo e mi permetta, non mi venga sopra. Io vengo sopra chi voglio. Vengo sopra come voglio. Trasmissione, dottor Parenzo, che è una persona sicuramente di livello maggiore, evidentemente per condurre insieme a lei deve avere grandi qualità di pazienza. Perché non è possibile, mi creda, con tutta la bontà, non è possibile ascoltare le sue baggianate, le sue banalità, dopo e vivo ancora. Che casinetto che sono. 92 anni, non è in grado di risponderle. Ha capito, prestiti in pensione, che ha fatto soldi, ha servito lo Stato 40 anni, così pure io. Ma che colpa ho io? Colpa. Però non permetto che si vada contro le istituzioni come si sta facendo adesso. Il rispetto. Questa è l'Italia migliore. Questa è l'Italia. Abbiamo dei genitori che non sono più in grado di fare genitori. Brava, questa è l'Italia. Ma lei ha visto il video? Oh, beh, è uscita adesso, toccando, che c'hai la tua nipote in braccio. No, quella è una foto, un video ti deve aprire, un video di internet. Ascolta, non ci riesco a... Cazzo, li ho visti tutti quelli che mi hanno mandato, cazzo, e oggi non riesco a trovarlo, ho provato, non sono riuscito a trovare niente. Aspetta, lo rimando. Aspetta, vabbè, mando là. No, tocca! Ehi, quella che mi avevi detto. Ma c'ha due ruote con la di bicicletta. Beh, a sei mi vuoi farlo, vedi orai. Tutto di là dove là, dove io non ci sarei riuscito. È bello, eh! Vedi che tanto truppa! Ehi, hai fatto, oh, ma cazzo tu cammina! Cazzo! Vai! a motore che c'è cosa è? E la tua tutaglia? E bisogna effettare, c'è effettare questa cosa così. Eh beh, visto ci vuole poco a farla. Ehi, la Super Italia. Babbo. Lui, aiù. Vedi, ferro. Ehi, va presto. Carrozzella. Ah, beh, questo è un attrezzo che ha fatto lui. Eh beh, non ha comprato la bricca, ma no. Eh beh, cazzo, sono guida e basta, capito? Peso non ne piglia perché sopra le ruote. E poi lo regoli come vuoi, basta che alzi o abbassi in base al terreno. Alzi e abbassi, no? Non è che è fisso. Bel attrezzo, Hai visto com'è semplice? Poi leghi il bagaglio lì e basta. Eia, infatti. Che? E lo piglia la mattana, gatta, a portarsi la tracolla. E non ti brutti manco a che lontano, capito? Anche, hai visto? Lui ha l'inventa, lega. Sì, vabbè. Chissà da quando vera pensando a fare una cosa del genere. Ma mica è una cazzata a far lui. Ma c'aveva i due pezzi di ferro. Cosa sei uni? Del tiro di ferro vi uni, cosa sei uni? Infatti, ma anche fatto un gruppo da cosa, da Dracula Drafila io. Un motore ciao, anche fatto un draio. Che sta di molto motore ciao. Catta, un atterratore, interruttore della Zicuzento e una batteria, cazzo. L'atterratore, cazzo, ti puoi immaginare? Ma pensava, Oh, una città, tu un bulo a Marino, Beh, figliolo a Marino. Cosa che ho fatto io, Mattesi? Però questo non l'hai sfruttato per cioè, che l'ha bruciato, boh. Ah, boh, ma lo saccio. Non lo so, basta prendere direttamente due forcelli di bicicletta, un tubo trasversale ed è fatto. Non è che devi pigliare un ferro, un bigiallo, mancano due forcelli di bicicletta, buro. E allora bisogna farlo e andiamo a campagnatoia a pulire, oh lui. Aiù. Davvero, bisogna inventarlo e lo costruiamo e andiamo a campagna tua. D'accordo allora, Cazzo, Aspetta un attimo, la vaselina, l'olio, i lubrificanti, la saliva, però comunque la donna non riesce a raggiungere quel piacere che potenzialmente invece si può raggiungere attraverso la porta anale, perché altrimenti vedi tutti gli uomini omosessuali come farebbero, così fanno. Quindi un po' come tutto quanto nel sesso, non è primariamente una questione di esperienza o di tecniche, posto c'è la connessione tra quelle due anime. Determinate informazioni nella connessione tra quelle due anime o ci sono o non ci sono. Ti sei giocato, hai finito, Pare, altre no. E nella stessa linea le loro teste sono connesse, hanno un progetto, vogliono diventare genitori, hanno dei valori comuni. È vero! Oh! Dimmi. Cosa sei combinato? Boh, niente di che. Sì, vabbè, va. Ci sentiamo, Lu. Ehi, procura le forcelle. Ah, le rotelle procuriamo. Ehi, tutto da Marcello troviamo. Ah, infatti, allora. Tutto da Marcello, questo. Va bene. E lo proviamo. Oh, è facile a farlo, Caccia. Ti ho detto ci vogliono due ruote di bicicletta, due forcelle di bicicletta e una maniglia trasversale. Ma l'umbrio dobbiamo buscare? Un tubo saldato, no? Alle forcelle stesso. Prepara lo schema. E buttiamo un buon puro bus a doccio. Cosa? Che ne buttiamo un buon puro bus a doccio. Come ti fai a camminare? Cambia solo il spogliatore e basta. Tu tu mi tiri, scusa. Allora bisogna pure un motorino per farlo camminare, con la catena e una batteria. E allora, anche. Non sarà, ma penso a fare una cosa del genere. Ah, io cazzo, già si può fare, oh, si può fare benissimo, però a posarti non viene bene, dai. Ma cosa stai dicendo? Ma se noi prendiamo una bicicletta, li togliamo la ruota davanti, alla ruota davanti ci attacchiamo quell'affare lì, quel bagaglio lì, noi pedaliamo, col manubrio giriamo e il coso gira e taglia. Io l'hai inventata a me, dai. L'hai inventata bene quello lì, sai. Hai visto? Tu guida e basta. Hai visto dove lui è attaccato con le mani? Noi lì ci saldiamo al posto della... ci saldiamo noi la forcella della bicicletta. Prendiamo tutta la bicicletta, le togliamo la ruota, ok? E la forcella la saldiamo a quel manubrio lì. Così fai, pedalando, guidando e tagliando. Preparo il disegno. Mi rimane per la bicicletta in di là giù, in via Pascoli, mi basta. E poi la voluta vedere in persona una cosa del genere, cazzo. Oh, non è difficile, no, cazzo sarà. E poi lì c'è il spogliatore che ha bloccato in mezzo a Ruzzalaglio. Allora, anche. Sì. Regolata l'altezza, certo. E tu hai detto, qui di sole basta, boh, e che tu cammina sempre. Hai visto che semplice che è. Che fatto, boh. Babbo, dai, sentiamo. Ehi, ciao, ciao. Oh, Luca, Peppa. Bisogna affacciaggio, passi pure. E male con due altri cosento. Ma pensate chi sono, in mezzo altri cosento. E chi? Mario. Un altro cosento, di primi altri cosento. Ma Mario Lidro? Di Lulli. Sì, se devo caro un capo della cappotta, sì. Di si cosente, a cosciente si cosente, giunto. Mi è a dare di noghi, Ecco, 500 bianca, si apre lo sportello anteriormente, i primi si cosente. Mi si è dimenticato di prendere quel pezzo di rete da campagna, va a Napoli. Vai. Bella, bella, pari nuova, certo. Cioè, la riverniciata messa a posto, va. Gianmarino, ci siamo dimenticati di prendere un pezzo di rete da campagna. Che non c'è bisogno di agganciare la moto e di sicuro di Trento, con taglia erba. Ah, è ammazza, di. Secondo me mi sei bene. Chi si ammazza, chi va, di voi, farlo, vabbè. Chi se ne, si può fare che cosa, si va da pur curvo sopra. Ha sentito dei buoni. Un attimo, via per punti che te si tende a te. Io sono sicuro che si ammazza, fa se muro da sedire, poi ti viaggia in due. Già è morbida, no, tanto si passa in aria, ha voglia, per pure sedire morbida, poi bisogna di pure pezzi di pelle o gomma piuma. Ma sei già forza, io. Forza, tutto un blocco, e so qualcuno che me la paga bene, vendo tutto, antenna di casa, tutto, baracchini, questo portatilino, tutto un pari. Se me lo pagano bene, trovo qualcuno a chi mi dico, non, tanto non lo so più, te l'attendi qua. Ma tutto un pari non puoi vendere a chi non sei interessato a tutto. Che cosa che mi tengo è quello che mi ha dato Gio Maria, l'alimentatore, che è quello che mi serve per la foto. Del resto vendo tutto, ma futti un bel blocco, a riposo li cavassi 200 euro. Metti sul marketplace. No, io voglio trovare qualcuno che si prenda tutto direttamente, non ci tengo io a ponermi sul marketplace e metti fluvi. Allora la gente ti pare dall'aria lo acquirente. Boh. Tanto non li posso nulla, è solo un po' di no, e qua non li attacca, se ne attacco anche con l'antenna lì. Non ci fa proprio niente, no. Siamo nei vostri nocchi, non lo sto usando. Mi sto usando questo qua, mi tengo i portatilini, gli altri, quelli per lavoro stesso, e lascio tutto quanto vedo. Non sei ben entrato nel 27. Quando entro? A casa solo domenica sono entrato e boh. anzi è ieri, ieri che sono rientrato presto, c'era Daniele, Walter, tutti quanti, Claudio, sono entrato a salutarli e poi mi sono messo a fare quel computer. Dico, la sera quando rientri però già c'è qualcuno ancora. Ma io rientro alle 9:30. E non c'è più nessuno a quello? No. Illu gufo! Devo essere bufandere i pallini, Graziano. Ma mando un messaggio, va. Si mangia un coccodrillo arrosto. Una foto mi ha mandato a me, non so cos'è. Al cui a chi non apre con sei piccini. Il coccodrillo arrosto. Se lo accendo, aspetta, hai visto quell'invenzione che ti ho mandato? Ma è una foto, non si capisce. Me l'ha già mandato tu, lui è un romano, ma... Cazzo, male me lo manda Brugio Maria, va, esitami. L'ho mandato io quel video. L'ho mandato a Graziano, a Gio Maria, a Luca. Ah, ci sei, Lu? E Lu? Hai visto quel prototipo che ti ho mandato? Una foto mi hai mandato. E il video ti ho mandato. No, una foto mi è arrivata. E io ti ho mandato il video di chi su dei cespugliatori. Hai visto? Qua se li fa, se li costruisci dalle ruote di biciclette, due forcelle, un telaietto. Lo copi, guarda quello, fa un prototipo. Animali di vari di là. Con chi su gozo. Ti fai un giro di campagna e mi dai saliente anziana. Te lo comprano subito e ti fai i soldi, lui. Ma devi dargli anche il decespugliatore. No, il decespugliatore se lo prendono loro e tu vuoi fare cose in grosso. Puoi mettergli un decespugliatore come campionare a farglielo vedere e ti accrediti il cliente e glielo fai, no? E ti fai il soldo e gli fai un bel di dinammi se ti fai un giro di campagni. Infatti bisogna andare a rubare... le biciclette perché ci servono le ruote. Cosa rubare? Andava a marcia e ti a capo, ti ricusa, è pieno, è stato le presse a marcia o da Cosmino, uno si viene in baghi, dei ruoti, dai del giro, ti li date in un cascione. Che non ti ne date, ne usi per l'alluminio, ti serve tutto completo, capito, grazie. La forcella ti occorre solo a te con la ruota, due forcelle e due ruote, poi gli pigli un pezzo di scatolato piccolo e gli fai un quadrato, non l'hai, sei una cazzata a fare, lo saldi, lì con la vernice da bomboletta ha fatto un bruttutico, gli metti già predisposto un acceleratore, non l'hai visto, col cavetto lungo per attaccare al decespugliatore. Con morsetto lo attacchi dove c'è il filo del decespugliatore, direttamente al carburatore, se assai vivo. Un filo appena più lungo ci vuole, c'è una cazzata a farlo, io a chi non si va, se no ce l'aveva fatti vedere, A pintati, a tempo benso. C'entra, l'acceleratore usi quello del coso, gli metti un regolatore, no? A coso, invece va tutti il trallino, il cavo, acceleratore a mano, c'è il coso stesso, gli metti un blocco in modo che rimanga accelerato e non c'è bisogno di fare tutti i giri, capito? E puoi anche mettere un blocco regolato all'acceleratore, al suo acceleratore e andare bene, ma stesso, ma di quella maniera va un pochettino più di estetica, capito? Fa di tipo il mattugno della moto zappa. Capita, è leggerissimo, così lavori bene, non ti ammazza né niente. Tu hai visto che è una donna che lo usa. Ma lo dice a Gian Maria, ma se noi fermo che si interraia dura, no? Da poi al manico dove le si attacca con le mani, noi ci saldiamo, prendiamo la bicicletta, ritogliamo la ruota di davanti e la forcella la saldiamo al manubrio, così fai pedalando e tagliente. Sì, si fa di bruginati. Vai, caspita, che cazzo non le posso fare, se no avevi fatto io cosa aveva fatto. Ma mi ha fatto ridere a vino, con chissà cosa. E fatto vuole, allora. E poi ci vuole... Naturalmente ogni decespugliatore è diverso, capito? Sicché Ecco perché l'acceleratore lo devi fare, se devi invadere un blocco, anche ogni cosa è diverso dall'altro, così che non puoi fare un prototipo di quel modello lì e da poi non andare a ballare un modello, hai capito? Ognuno da poi si lo blocca come te li piazzi e accelera con una levetta, con un bulloncino per regolare la tensione dell'acceleratore e poi basta, non è che dica fa filo, mica filo e poi magari non va bene per quel modello là. Sì, ma anche per bloccarlo, guarda, si può adattare anche delle cinghie in nylon, quelle che si adoperano per i pacchi, con la fibbia autorestringente per bloccarlo, li buoni due, una sotto, una giù dove c'è il rocchetto più su, però no, un po', per tenerlo fermo invece spugliato. È una dove è più su vicino al motore e lo tiene fermo al centro, capito? E secondo me vedi il Vasselini là costruendo una cosa del genere. E tu calcola, tutta quella gente a terra che vive in campagna, ti trattano del cespugliatore, già cattano una cosa del genere, si rabbigliano al volo perché non c'hai peso addosso e non ti tratti. E quanto lo vendemmo? Bisogna calcolare le ore di lavoro che ci hai messo, il materiale che ci hai messo, tiri le somme, le spese che hai avuto, tiri le somme e fai un prezzo a quello e il tempo che ci hai messo tu, cosa vuoi dire? Una cosa del genere, secondo me, facendola io sulle 400-500 euro lo venderei tranquillo, anche 400, va. Però bello, bello rifinito e tutto, capito? Magari ci appenderei a un lato la borsa con il filo, tanto per dare e colpire l'occhio, no? E di là vicini. Luca Malicò, mi accessi. E grazie di questa idea. Grazie, ma se costa 180 euro, 185 euro, chi sa scoppio? Ma cosa sei di Zendit con 100 euro? Uno dice ando da Brico e me lo piglia a scoppio. Chi sa è la musica. Ma cosa ti piglia a scoppio? Le ruti. Da Brico e da Brico a Porto Torre. 185 euro costa quella scoppio a benzina. Guardalo nel volantino. Cosa c'è con 100 euro? Ti non le ha neanche. Non è un volantino, non ne bastano i mali, su quello che mi avevano passato l'altra volta a chi l'ha già avuto in terra, ma non qua, e ne aveva accorto. E qua non ci passano mai gli imbecilli. Ma 180 euro cos'è che costa? Il carrellino o il decespugliatore, se dice? Oh, il decespugliatore, quello a scoppio, con la benzina, amici. Da Bricome costa 180 euro, che uno di 100 euro un carrellino con due ruote non compareggia mai, che utilizzando da Bricome lo piglia a scoppio già pronto, tiri la levetta, si accende e passi, capito? Ma non c'hai il carrellino e ti lo devi appiccare a codi di tra di manna, se una zia non gli dà un paracchina e t'ammazzi. Invece col carrello sto dicendo il carrellino. No, il decespugliatore ci puoi mettere sopra quello che c'hai, chi subiti da scoppia, miscela, quello che vuoi. Siccome quello è abbastanza grande, se l'hai visto, e pesa, per una donna quello è pesante pure ma un uomo, ha un manzano dagli enigmi. Quelli leggeri va bene, ma quando ce l'hai grosso così, ti dirà paro braccio e l'hai chinami. Non mi ha capito, no, quelli a spingere da Brico come ci sono, quelli uguali a quello, quello a spingere, però ho già fatto, capito, c'è il motore in alto, sotto c'è il modello che c'è il filo, c'è il modello che c'è la lama, già pronto a spingere, no, a braccio, no. Boh, non l'ho mai visto, eppure la maggior parte delle volte ci passo lì a guardarli, a guardare cosa c'è, cosa non c'è, se ci sono uguali, anche da poco sono passato. Non ha più visto, e che punto l'hai vissuto? Alla Brico me la prenda niente, a lui stai dicendo. Vabbè, io chiudo, dai, che sto uscendo, ciao. Ciao Lu, dove stai andando? Al circolo. sta andando al circo a fare la scimmia, ci serve un coso, mi serve un ippopotamo. Ti ho visto l'altra volta in quel video, ti ho mandato qualche cosa così. Già era bravo quello che stava cantando là. Ciao, buon divertimento. Mi serve un ippopotamo, Luca non ci vuole venire a farlo. Siamo là a fare per bene. Luca non ci vai. Flippero, ma te lo mangi quel coccodrillo che ti ho mandato. Chiudi, già la città di Maria Musina, via Pascoli, ha detto. Ciao, grazie. Ciao, Lu. Buono il suo coccodrillo arrosso, Luca. Ehia, ciao. Cannibale, già, che schifo. Sa di pollo, dici. Sì, me lo posso immaginare. Va, buda, ciao. Ciao, Luca Flippero, mica del sa di pollo quello. A te ti piace, mi. Ma li scigato, Sì, ma se la richiamo da trucchetti, ma fa la misura, questa era la misura sbagliata. Ciao. A chi mi ha detto se guardi un piacere andare a pigliare la sala di cubicca. Ah, di tanto la sala così a futtiti, so se lo tirai in più. Così la paghi di manco. Ciao, ciao. Sono da Paoletta, anche da parte di Marina, ciao. Ricambiate al centro, sta guardando la TV in camera da letto. Ciao. Grazie, guarda che ti ho mandato la foto nel telefono. Aspetta che poi ti mando un video di una cosetta. L'allaccio l'ha fatto, bubu. Aspetta, lo mando là. Mica te l'ho mandato, lui, guardalo. Flippe! Guardatela, a me non ero ricevuta. Come mai che non li cancella il video che ti mando qua? C'è scritto non puoi rispondere a questa conversazione, scopri di più. Ma cosa? Io ti sto mandando a te il video. Ma su WhatsApp o su Messenger me l'hai mandato? Su WhatsApp? No, questo era su Messenger, su WhatsApp adesso lo guardo, aspetta. È già arrivato. E su Messenger perché mi fa così, non cancella neanche il video che ti mando, non li cancella. Come mai? Solo che lo uso io, se condivido qualcosa da me. E non è che ce l'hai bloccato tu e non riesco a sbloccarlo io, a cancellarlo. C'ho tutti i video che ti ho mandato su Messenger. Vado a cancellare e non esci. Adesso lo guardo, mi illumini. Ah, ma questo è il Dosaed, ma questo già lo so com'è. Vabbè, il tuo è differente, già lo so, ho capito. Questo sta dicendo. Ma quello là, c'ha le ruote più grandi, il mio. Questo già lo conosco, già l'ho anche adoperato, c'ha il coltello in piano. Un amico mio si è tagliato un dito. Appoggiato la mano in un cofano per dare dei buchi, no? Come estetica. Si è parlato lui di dare la mozzata lui di giù. Ma dico, se uno deve spendere 500 euro per due rodi tagliati, devi già quando apri come un 150 euro e me lo compareggio già pronto. Quello è lo stesso modello, né più né meno. Per quello non puoi mai venderlo a 500 euro quell'affare là, capito? Ma neanche se lo dai col decespugliatore è già pronto. Sì, ma c'è una cosa, questo col cofano, un iverrocano per cammini, con chi tu con i rodi della bicicletta, con chi tu cammini burinata alle roghe, tipo in campagna da me, ci sono certi pezzi di terreno dove ci sono le rocce, e col tagliare erba così già viene bene, come questo che ci ha fatto questa qua. Con quella carrozzella lì chiamiamola. E chi sa dici l'acqua di l'aria che agganza la rocca, hai capito? Ti si buggi la mano. Ma è troppo 500 euro. A meno che non ti fai vinta su a piedi, un ghiso. Vabbè, io ho detto 500 euro, poi uno si basa sul lavoro che ci hai messo, sul materiale che ci hai messo, uno si basa, no? Tieni di riazzurrata a battere un po' che barauri e magari scende di prezzo. E secondo me Lugo fare già la gente, perché quello è più comodo di quel Tosema, perché con quello puoi salire, passare anche dove ci sono le rucce, capito? E lo manovri, lo alzi, lo abbassi, capito, come ti piace. E come ti viene a conto, il giorno non viene a conto e ti viene maneggevole, leggerissimo. Quello là no, si passa con chi, su un iso così zanieri, ti si vorrà la mano, a chi sbicca la rocca. Calcola dai, tra ore di lavoro, ore, non è che voi la sai, però ore di lavoro e coso, e materiale, lo vendi buono buono 150 euro, va benissimo, non ti avanza buono. E fai 150 euro, tanto se recicli quel materiale, le ruti, i forcelli, non ti viene a cucciare nulla, già sono buone, e male sono 150 euro. Paghi, gli fai tanto per fare una prova, un 4, e poi ti fai un giro a venderli, eh? E vedi come te lo vendi subito, a 750 euro, avanza. Scommetti che l'ho vinto, una bomboletta, una cucca, seguito, a verniciarlo. Lavoro quanto ci impiegherai a fare un traietto e saldarlo così, oppure puoi bucare anche e mettere i bolloni passanti. Cosa vivo? Fai due giorni, forza! A voglia che ci sta bene una persona, a 150 euro già andava. Una volta che c'è il materiale, fai che ci metti due ore a saldare il tutto, ma esagerando, capito? Se hai già tutto pronto un paio d'ore, ci vuole più tempo a tagliare tutti i pezzi e misure e quant'altro che non puoi assemblare. E poi si può fare anche a tipo suonetto, pieghe, volevo tipo le sedie a carrozzelle, che tramite un blocco la chiudi a fisarmonica e la puoi mettere da parte senza che ti occupi tanto spazio. Ne so troppo io. Guarda che non l'hai detto, lui sa già paffuta, basta anche il telaietto, uno scatolato di sì, gli zeri, baratti là, ferro, non lo so, ma questo ferro è pure bisante. Anche uno scatolato piccolo di alluminio, non so, un 3x3, fa il telaietto, fai i buchi, da bulluneggi e da poi da bulluneggi di forcelli, tutto a bulluneggi. Non esiste, devi esagerare per forza. Infatti. Già si può fare. Allora siamo gli affendi con Gian Maria, ti manda a pigliare tutto il materiale, due forcelle, due ruote. Devi dare roba nuova, non puoi dare. Mica poi se te lo vendi devi dare le compagnie consumati, tutto rugginoso, cioè vuole ferro nuovo anche perché lo devi verniciare. Non ferro usato. Ma lo sai, le biciclette che ci ho buttato dalla campagna saranno tre anni fa, minimo una dozzina, invece erano i rotti nuovi, pure qualche bicicletta era nuova, ci sono arrugginiti che erano dietro la casa all'aperto, con le intemperie sono tutti arrugginiti, poi non vedi bigliava più nessuno, a giugare se l'hanno tutti lampati, e vedi, quelle lì erano buone le forcelle. Scusa, se vai a comprare due ruote, adesso io non lo so i prezzi delle ruote a bicicletta, tanta vana cucina, però non puoi comprare roba usata, capito? Grazie, devi comprare roba nuova, raffigura. Ma la volta che lo pulisci e lo vernici esci nuovo, ma non hai mai verniciato roba vicina, è pure di esci nuovo, Devo più tempo a pulirlo che a pigliarlo. Sta ingassata un ferro nuovo. Vabbè, uno si adatta, se non vuoi spendere fai così, se poi c'hai qualche soldo e ti rubi il materiale è meglio così, ma uno se si vuole adattare, si vuole arrangiare, e alla gatta lo mettono per fargli figurare una cosa ben fatta e nuova, là così sotto magari la porcella è arrugginosa. Capi, già si adatta, ma peccato che lui durante l'anno l'abbiamo costruito. Ma viene roba su internet. Perché quella è una cosa un bel comoda, è alta, è un bel leggerissimo, vedi come fluisce bene quella signora camminando e tagliando, pare bassi geni. Invece ti dà di burro a 104, cosa? E allora di burro una cadria, una rotella da reggio e di pedali della bicicletta e poi e taglia. È presente quelle biciclette, grazie, che usano in Cina, che hanno due ruote davanti. Una di quelle ci vuole mettere il spugliatore attaccato. Ehi, chi si dassi, vero, bisogna i dassi, chi sa bicicletta bisogna i dappini, chi si muove in Uganda a Rugutu, Mantellano, e di voi e cominciano a pedalare, trottare a piedi, a ricuccia, non l'hai mai visto? No, io sto dicendo quello che ha due ruote davanti. E è una specie di tassi, usa, e c'ha due ruote davanti e una dietro. Ed è che tu pedaleggia. È una cosa del genere anche si può fare, vedi? Anche no, che ci cagli tu! E va a piedi sono i pedalò, capita poco camminare i sigini a piedi, con un carruccio attaccato e poi sono i burri sui bassoni. Non l'hai mai visto al televisore. Ehi, sopra la macchina. Capita, chi si vuole fare i 100 metri? Curri non bimbi. Tutte le inventano loro. Ehi, a fattinai. Aspetta che sono al telefono. Prezzero! Ehi, aspetta un minuto, sono al telefono, mica c'è Luca Flipper. Però, ma se dimmi, Luca, sono Marie. Luca, sto chiudendo, se ci sei, ci sentiamo.